attenzione di aria 10, cambi. Quindi mi ne beso, esco, capito? questo. Ehi, Angie, già sono qua in ascolto, non c'è problema, dai, buon lavoro, a dopo. Ciao, ciao. No, è attivo. Sì, sì, ho sentito. Ciao, cioè io non mi chiamo Bruscio, quindi. Sono io, sono io. Chi? Il più forte. Io non mi chiamo Bruscio, se Fruccia io non rispondo. Non sentivo bippi, non sentivo nulla. Vabbè. Ok, qua. Ciao, vabbè. No, sto provando quel cobra. Oh, cobrando stai? Sì, io sto andando col l'MB più 5 e il 48. E io. Oh, va bene, avuto. Questo com'è di modulazione? 5, chiara, perfetta. Non è amplificata, va benissimo. Chi era? Genio. Ah, positivo. Ciao G, buonasera. Ciao, ciao G. Ti assento, non c'è problema. Oh, ma c'è lì. Stavo vincendo. Ma quel cobra cosa c'ha l'attacco 48? Quello? Il cobra cosa c'ha l'attacco del 48? No, ha l'attacco Galaxy. Al contrario. Sotto il male. Bisogna fare quello l'adattore. Dobbiamo fare l'adattore, se no il microfono non lo posso usare col DAC. Senti la diritto, la stai infatti con la lunghezza. Com'è il segnale? Buono, cla? Su questo sei oltre 9. Non so quanto sia affidabile, ma comunque già è abbastanza alto. Finalmente, a mettere un po' di eco come il cavolo era. Allora, 1, 2, 3, prova. E così è più amplificato. Aspetta, vedi. Ora. Così al mare. Sì, il reverbero c'ha pare un Galaxy Saturn Echo con l'eco giù. Ora, 1, 2, 3. Così bene va. Sì, così è più amplificata e non c'ha quell'eco brutto, dai, quel reverbero. Beh, Gaia, parlando stai. Allora, devi ballato hai oggi, o andare devi ancora. No, non ho parlato, capparoggio. Oggi non verrà la gara di ballo. No, oggi no. Niente, oggi è riposo, La base è riposo oggi, meno male. Già, sai che prova a mettere lì? Ora. Il bipiveo che già lo so. Che sugar, non si sente neanche. Vabbè, questo è il suo pipi, sì. Ah, io dov'è? Mi... vabbè, portate il cappello, che è comprensibile. Allora, compriamo il suo pipi. Ecco. Ma lì non hai il microfono da tavolo, così? No, negativo. Peccato che... Perché mi dici, io la prolunghetta, no, già me l'ha detto Gigi che se la volevo me la facevo, Già lì dico di farmela, così posso usare anche il gas con quel microfono. E vabbè, se vuoi sì. Vabbè, l'importante è che sia abbastanza comprensibile, e adesso la moto di faccia per questo. No, perfetta Massimo, perfettissimo, 5 pulita, tranquilla. Questa va bene, no? Va bene che stai modificando l'MB più 5. Sì, va bene, e tu come ce li hai, tutti chiusi? Sì, tutti chiusi, se li apro mi toglie gli acuti. E prova a metterlo a 2 invece. Ma cosa, i toni? Sì. Dopo che feo Massimo, mi abbatto. Così a 2, abbante feo. Prova. Guarda, è bruttissimo a 2. Io li tengo chiusi, se no mi toglie gli acuti. Come se ti dico che non è male così, lo sai? Oh, io mi sono ascoltato e fare tutta impattata la modulazione. Se li metti lì a 0, invece l'amplificazione come ce l'hai, a massimo? No, l'amplificazione ce l'ho a 6. Prova a aumentare, a vedere. Così è a 8. Certo, così è più bella. Più forte, no? La tappignana mi ha detto abbassare dopo volte. Così, cioè perlomeno, io ti sto ricevendo con questa radio ed è molto molto più bella così. È quello della radio al massimo? Sì, mi chiede a manettone. Però ti ricordo che questa non è stata modificata, capito? Magari c'è qualcosa ancora da tirare sul Mickey Gain, ma già va bene, tanto è una cosa provvisoria, giusto per usare questi baracchini. Ok, anch'io, così ti sento meglio. Poi se già sentiamo che sei troppo forte, perché te la commetto. Allora la aspetta così, cosa devo baciare? Se tu mi hai detto va bene così, la lascio così. La tua parola contro quella di Ratta Pignata. Certo, non fai mai con 48. Ti rendi conto che c'è l'operatore che c'ha valigie? Sì, che me ne sono accorto. La mia voce è micidiale, non si vede. Io qualsiasi microfono, se può una gaggata, riesco a portarlo bene. Volevo usarlo anche con l'acqua questo microfono, invece non posso usare perché è al contrario, capito? Te l'ho detto io, che lì ci vuole una prolunghezza, o no? Sì, me l'ha detto Gigi se la volevo con la faccetta. Mi sa che non dico se me la faccio. Capito? E ce l'ho intanto un maschio e una femmina. C'è quello che hai visto tu di là attaccato al DAC, con lo spezzone. E poi ne ho uno da pannello anche, capito? A quattro. E quella ci vuole, perché se capita che devi usare il DAC, attacchi quel microfono, lo attacchi all'altarraglio con la prolunghezza. Sia una che l'altra. Si conferma, si conferma. Ce l'ho mai al contrario, te l'ho detto, ce l'ho mai al contrario, capito? Praticamente la femmina è a 8 e il maschio a 4, vorrebbe al contrario. Positivo, io ci vuole poco a farla quella. E così puoi usarla, ripeto, sia nel DAC che nel 48 va fisso, nel DAC ci lascia la prolunghezza, quando ti serve sgancia, sgancia l'altro. KK, stavo dicendo, un lignarettino volevo mettere a questo LAN 48 a darle un po' più di spinta. Oh, allucinante, eh? Allora, con la T230 in scala 20 da di portante bianca, da, già l'hai visto, 6, 7, 7, quasi 8 watt. Buono, buono. Cos'è che ha detto? Voglio mettere uno? Un lignaretto. Tipo? Tipo piccolino. Tipo un insieme a Redi. Capito? Uno di quelli piccoli, giusto per darle una spinta in più. Già arrivo a tre parti, arrivo anche bene Alghero, con 48. Non ce n'è problema. Però se c'è, insomma, quando magari c'è QRM alto, eccetera, un 5 watt, 80 watt, una cosa del genere. Sì, un 747 li prometto. Allora, sì, così lo uso anche con DAC, perché anche il DAC in AM c'ha 10 watt, quando laterale ne ha 25. Sì, certo, e poi c'è un paio di 747, perché ne sono molto pochi. I lumi per il lignaretto che è 80 euro mi pare duce, no? Ho usato, lo trovo intorno a una 50 di euro. Sì, vabbè, non paga 30 euro in più, fa 20 euro in più. Cosa, magari è esaurito o è fasciato. Capito? Io già avevo il 231, l'avevo dato a Franco e non ce l'ho più. Se no mi sarebbe stato utile anche il 231, capito? O Guido Mamica del Dume, ciuccio, quello lì, quello lì, l'avevo dato a Franco a cambiare il condensatore, boh, pari di tutto. Caparrocchio, già si buscherà, no? Già si busca, non è un problema qua. Andiamo a Antonio Golden, me l'ha detto, lo stava vendendo, 50 euro, nuovo, una valvola nuova. Se te lo chiamo, glielo dico di portarlo. Ce l'ha? Antonio Golden. Ma te lo portare, ma perché tu ne hai? Io se vuoi ce l'ho, non è un problema. Se lo do, te lo usi, poi quando mi serve me lo torni, no, per quello proprio non c'è. Perché o mi chiami tu o ti chiamo io al telefono? Ti chiamo io, là, che così non spendi. È vero, io c'ho il riccio in tasca sempre, che c'è la mappa delle varie. Ti chiamo io, aspetta. Chiamami, dai. Aspetta, che sono al telefono. Dai, non come, non ti preoccupare, tanto lo facciamo le prove. E che prove stai facendo, Antone? Antone, che prove stai facendo? Sampei. ridicolo canale. Così è. Millomi. Allora c'è qualcuno in questo ridicolo canale? Ho acceso adesso mi. Avevo staccato l'antenna, staccato la spina con tutti gli alimentatori, tutto avevo staccato. Oh, si è sentito un botto qua, a una certa ora. Deve essere che era relativamente vicino il fulmine. Oh, una bomba, Maria. Il gatto è fuggito. Sì, si è nascosto Filippo in bagno, figurati. No, io c'ero anche poco fa, c'era un civiliano. Poi ho visto che non stava piovendo, non c'era nessuno e sono andato a portare il cane, capito? L'ho portato prima. E sono arrivato adesso, ho sentito a te fischiare. Purtroppo ho acceso in ritardo, sono già le 7 e 11 minuti. E ho acceso tardi, dai, ho mangiato alle 6 e mezza, poi stavo cincischiando. E vabbè, mi sono perso, vabbè, un po' di questeo, dai. Ho acceso anche il ricevitore, ma vedo che tutto tace. Sul 20 c'è qualcuno. E vabbè, è Natalino entrato oggi. Giugioso, io stamattina non c'ero che lavoro. Poco fa non ho sentito. Sento Eugenio, ho fatto due chiacchiere con Eugenio. Stavo andando a lavoro e poi con Massimiliano e basta. Poi per il resto non sento nessuno. Ehi, capace che oggi molti siano davvero con le antenne staccate, col cavo staccato. Bei fulmini hanno fatto. Spero che abbia piovuto abbastanza, poi io non ho messo testa fuori perché come vedo lampi chiudo tutto e non voglio vedere nulla, che li temo i lampi. Non i tuoni, no, il suono non me ne ha fatto nulla, i lampi che temo. Ah, cosa ha piovuto? Ha piovuto dalle 3:30 alle 4:15 e da alcuna parte è iniziato prima. Stamattina sono uscito, c'era il sole, figurati. Al lavoro c'era il sole, non ha piovuto, non serve a niente quest'acqua, deve piovere 24 ore, 12 ore di continuo. E guarda in Liguria, nubifragio, lì acqua ne hanno a buttarne, anche a Roma ha allagato varie strade, eccetera. Solo da noi piove poco, piove da uno spruzzino e poi basta. Infatti le conseguenze si pagano in estate. Dovrebbe piovere durante 9 mesi dell'inverno, insomma, autunno, primavera, quello che è. Io ho capito, ma l'acqua serve adesso. Se vogliamo invasare serve adesso, altrimenti poi è troppo tardi, capito? Non ce la facciamo più a recuperare. Eia. Eia, Claudio. Ero in bagno, vabbè, insomma tante piccole cose, fa male anche il dente oggi, mamma mia, sto dente quando mangio roba dolce o roba appena appena fresca o fredda, mamma li turchi, e mi sa che qualcosa bisognerà fare, o lo togliamo, tanto sono tutti, io un giorno mi farò la dentiera, non me ne affutti se mi cadono tutti i denti, io faccio una bella dentiera. E così i denti ce li ho belli. Natalino, ci sei all'ascolto? No, avete un pezzo di pizzone, avete, ti fa male. Eia, con quella ti fa l'anestesia e non senti più niente. Davvero, buonasera a tutti, là. Oggi sono a casa e da presto, ecco, da 10 minuti. E non devo andare da nessuna parte, no? Mi sono fatto accompagnare e qualche oretta di tempo ce l'ho per fare due chiacchiere, se c'è qualcuno se no piglio il fududdutto e magari stavo con più tempo. Siamo entrati, non c'è mai nessuno, per forza. Ciao Lu, buonasera, ben ascoltato. Ciao Luca, ben entrato, dai. Ciao Cla, ciao Marco, dai. Un attimino che mi attacco il modem, l'ho spento con questo temporale. Eia, Claudio, avrei voluto vedere quella maggiera a Platamona con tuoni fulmini. Mamma mia, ma come fa a vivere in quelle condizioni? Ma mi hai tolto la parola alla bocca, davvero, perché ieri notte era un bel forte, ma un bel forti, va. Io ho abbassato tutte le avvolgibili, si illuminava la casa. Fulmini a tutto andare e tuoni fortissimi verso le 3.20, 3.15, capite? Cazzo, questo cane qualche giorno, cazzo, mi ne stacco la testa, cazzo. Un cane che neanche si vede in terra, state sempre a Bagenda, cazzo. Ti presto la carabina. Ma io sono amante dei cani, ma questi cani che stanno sempre camminando e abbaiando, mi si girano così a balle, ma non è il mio, già non è di quelli. E quelli piccoli sono così, guarda, ce n'è uno nel palazzo che già come esce nel portone dalla casa sua comincia a abbaiare il vento, fa un bel casino. È un abbaiatore professionista, è un chihuahua, mini chihuahua, dici che sono tutt'occhi e niente cervello. Lo so, bisognerebbe farli operare alle corde vocali dei dettogli, così non abbaia più. Che crudeltà! Te immagini un cane che non abbaia? Mamma mia, cosa brutta deve essere! No, ma questi sono proprio rompiscatole, una cosa allucinante, questi piccolini. Filippo quando li vede li ignora praticamente, capito? Li ignora, fa finta di non vederli. Deve essere che non li sono simpatici neanche a lui. Vabbè. Cosa ci racconti, Gambio? Ehi, niente di che, dai. Io sono andato da picco a prendermi una presa, una spina. C'è un maschio alla fine, adesso mi aggancio una pluga che mi serve. Sono uscito un altro lavoretto e devo andare martedì a farmelo. Sempre lì solo, sono sempre roba di antenne, dai. Qualcosina. E almeno mi guadagno una giornata, clap. Tanto va a campare. Sì, io già non mi perdo l'animo, lo sai, no? Io quello che esce, ma lì guarda, volevo andare anche all'UMAC, so che purtroppo i tempi sono quelli che sono. E che mia madre mi ruba un po' di tempo. Cioè se vado, tipo le 5, le 6 e rientro verso le 9. Invece non vado dopo le 7:30 e faccio la puntura lì, è un casino brava. Se ho qualcosa di soldi me l'avrei fatti. Me la vendo e qualcosa me la guadagno. Se vai alle Marche, chiamami subito e te le compro io, capito? Io tempo non agio a comprarle da altra gente, non mi fido, però da te sì. Se vai, avvisami e te le compro io. Ma ti dimostro male che la marcia sì. E poi le faccio un bel. Appena le faccio, già te la faccio un regalino, tranquillo. E tu sei sempre un regalino, dai, tu falle, già te le compro io, non ti preoccupare. E asciuga. Ogni volta ti chiedo qualcosa, già te la porto, già te la regalo. Tu falli. Chi si andando in baguadagnare di là, non va a regalare nulla. Non ti preoccupare, già lo so che a me quando ti chiedo le cose ti fai in quattro, no? Non in due, in quattro. E tu la tappignala, perché non vai a Lumacchio invece di stare coricato nel letto, brutto buco. Ma è più bello rimanere coricato nel letto. Ah? Macchie, questo è il periodo buono, domanda, adesso che a periodi, in certi periodi hanno i vermi e quindi non bisogna prenderle, poi pure mi aveva detto Mister X che a periodi è vietato prenderle, adesso avete notato, sta diventando tutto vietato campeggiare, vietato stare fermi alla roulotte, vietato fare lumache, vietato accendere il fuoco, sta diventando una città di divieti, ma non solo qua, anche nelle altre città. Tipo Roma, Venezia, hanno messo fuori legge i centurioni, poveretti, che si guadagnavano il pane facendosi le foto con i turisti tipo giapponesi, no? Vietato mangiare panini in piazza Venezia, vietato sedersi o bivaccare, che poi basta che ti siedi su vicino a un monumento e lo considerano bivacco. Insomma, sta diventando uno schifo di mondo, vietato fare tutto, capito? Non puoi mangiare, non puoi bere dalle fontane, non ti puoi sciacquare la testa nelle fontane, puoi fare nulla. Almeno poi nelle grandi città tipo Roma e Venezia non ne parliamo, è tutto vietato lì. Vabbè, vuol dire che ci sono i divieti. Non lo so, Luca forse lo sa. Il periodo questo delle lumache e dei lumaconi, non Luca? Non ce n'è, come si dice, fermo biologico, no, no, si può fare, si può fare. Le prime piogge, però quando mettono le uova, allora le devi lasciare. Se un bel di lumaco ci sono in giro, qua, un bel. Devi sapere i posti, ce ne sono un bel comunque. Appena, adesso appena mi faccio questi lavoretti qua, tanto domani sono a piedi che c'era lì la macchina, mentre lunedì la butta lì per andare dalla signora. Poi martedì se piove, mercoledì se piove vado, anche martedì vado a fare un lavoro, da mercoledì in poi posso andare, anche se vado dopo le 7 non mi interessa, però già cammello forte, tanto faccio le 7, anche alle 11, anche mezzogiorno e poi me ne rientro. Ma non so Milu, perché praticamente il tempo brutto termina martedì dovrebbe riprendere il tempo bello, capito? Non penso che piova, insomma, forse pioverà oggi, stanotte, magari anche domani, non lo so, però da martedì ha dato miglioramento. Sì, claro, già pioverà, comunque già si possono fare ancora, non c'è problema. No, ci vado, poi mi piace anche raccoglierle, claro. Passeggi, sembra così, ma non vai a fare l'uomo che fai chilometri e chilometri a piedi, E almeno, solo io ricasso in gaggio, che c'è come un giro, non rivengo. Ma io già rivengo. Lei scritta è piccola che non vedo. Ma il resto, già la lua che già le vedo. Avanti, mi va, riprendi. Ah, sto mettendo queste prese in questa prolunga. Riprendete voi, ma ve ne ascolto 10 minuti. Poi riprendo, adesso sono qua. Io. Quanti anni sono passati? Quando c'era nonna e nonno, caspita, si andava a fare lumachi, lumacconi, lumacchine, erano sempre loro che promuovevano la cosa. E con nonna, mamma mia, dove c'erano quelle foglie grandi, no? Cadute a terra, spostavi la foglia e trovi due o tre lumacconi, tutti assieme. Era uno spettacolo all'epoca, poi c'erano meno divieti, meno. Vabbè, ovviamente andavamo nella. Con la stagione giusta, certo, non fuori stagione, sennò trovi fermi o non vanno bene. Poi, una volta che è andato in cielo, non è nonna, non abbiamo più fatto. Poi, una volta che le abbiamo prese, le lumache comprate, sono state trattate male, cioè non ne sa fare mamma, non so, non ne sa fare, gli ha fatto una, come dire, il digiuno gliel'ha fatto male, tutto uno schifo, ci abbiamo buttato tutto, bruciavano pure, lasciamo perdere, dai. I vecchi erano così, caro mio, andavano a tutte le parti. Beh, io della cultura sono molto bravo, cantine, poi vabbè, condimento di prezzemolo, ma io già le faccio un po', lumache ne mangio un bel, lumacconi non mi attirano, sono sincero, ma le lumache, le monzette, le lumacchine un po' così, ma io le mangio, ma niente di che, ma le monzette fatte così agli prezzemolo per peperoncino, Allora, sto guardando il meteo, per domani è nuvoloso. Nuvoloso, però precipitazioni 20%, sono 24 gradi, umidità 61%, vento di maestrale 39 km orari, cazzo, fortino? Sì, che addirittura? Eh sì, così dice, sto guardando su Google, più o meno questo è molto affidabile, perché ogni volta che lo guardo è sempre così, per il lavoro, capito? Cazzo, questo vento di maestrale 29 a 39 km orari non è poco, eh? Non è poco, no. Marco, mantieni l'antenna. Sì, guarda, se cade non ne metto più. Pazienza, non ne metto più. Pazienza, modulerò dalla macchina quando sarà possibile. Magari dico così, poi subito la metto nuova. Vabbè, dai. Cosa volevo dire? No, io mangio lumachine e lumache. Le lumache le puoi fare in verde, in rosso, gratinate lì col pan grattugiato. Invece lumaconi a mongette non le mangio, le vedo troppo callose, troppo bestiose, capito? Solo lumache e lumachine che sono le più tenere poi. Giù, lumaconi, cosa ridere? Le lumache già sono buone, ma lumaconi, le pieni, ciuccia. Eia, no, a me non sono piaciuti mai. C'è niente da fare, una cosa o ti piace o non ti piace. I francesi hanno quelle che i francesi chiamano escargot, no? Sono lumaconi, ma i gusti mi sembrano diversi, lo sai. Deve essere una razza leggermente diversa da quelli che abbiamo in Italia e soprattutto nel Mediterraneo. Se vedi i gusti sembrano leggermente diversi. Avevo fatto una foto, non so, forse l'avrò cancellata. Se vedi lumaconi ci sono alla sinistra, sembrano tartarughe. E lì non si possono toccare, vero? Tutto vietato lì. E appunto per quello, continuano a mangiare, a crescere, continuano a mangiare, ma brutti, neri, con questo guscio duro, mamma mia, io l'ho visto una volta, ha detto buono in terra, buono, castabale, un tortoio, sai quelle tartarughine piccole che vendono, più grandi di quelli sono, mamma mia che brutti. Ma sono commestibili, almeno si sa se sono commestibili. E poi zitto qualcuno di là ce le fa di nascosto. Non lo so Marco, non lo so. Io l'ho vista camminando, c'aveva questo guscio enorme. Cazzo, sembrava uno di questi siringoni camminanti. Tre di quelli hai cenato. Mamma mia, non lo so perché a me faceva schifo solo a vederlo. Eia. Vabbè, comunque sì, è vero, gli anziani ci andavano, nonno e nonna, poi vedevi in via Brigata Sassari, angolo tipo via Turritana, vedevi la solita vecchietta lì che vendeva lumache, ti ricordi? Lumachine, lumaconi, mongette, quelle tre vestite di nero mi dei paesi, adesso non le vedi nemmeno più, c'è proprio un cambio epocale. Ah, c'è quella di via Pasqua, di quella signora che vende lumache, lumachine. Io le prendevo spesso quando ero in via Pasqua. Già erano buone, No, io non ci vado perché non li vedo, capito? Poi tempo ne ho poco e quindi come faccio? Se non devo andare quando sono a riposo, un sabato mattina, una domenica mattina, non fa perché intanto non ci vedo fare. No, ma lì alla Sinara tutto molto più grande, se tu vedi le lucertole che noi abbiamo normalmente qua, cazzo le vedi lì, sembrano coccodrilli, è tutto perché la natura lì è proprio, non capito, quindi nulla, niente. Un giorno ho visto un gatto selvatico, lì alla Sinara mi sono spaventato, gatto baiano, uno di questi leoncini, di quelli... Quei tigrotti, mamma mia, te la mano che... Sì, lì è tutto, non si possono toccare lì la fauna, è tutto, non tocchese, e perciò crescono a dismisura poi. Eia. Bene, vai Luca. Mi arrivo a così finita, sto mettendo la femmina adesso. Comunque per quanto riguarda quello che ha detto Claudio prima, che sei troppo coricato, deve essere in compagnia, grasso non fa Marco, in compagnia. Lo so, però io sto troppo a letto. Non è normale questa situazione. Tutta la mattina e il pomeriggio passo la serata a letto, sia anche sveglio, sai, con lo smartphone, però non fa male al fisico, fa male alla mente. Infatti ieri a Claudio gli ho detto che ero un po' giù, ero un po' depresso, e allora sono uscito in macchina, mi sono fatto la litoranea, sono andato, sceso ai Lidi a vedere lo scempio, insomma ieri tempo, sai, ieri sera era bello, ci ho fatto una passeggiata, ci ho pigliato un caffè e un po' mi sono ripreso. Però un po' giù sono questi giorni, vabbè, purtroppo. Bisogna uscire di più, ma anche a piedi, perché io non cammino più. I io quando esco esclusivamente in macchina, a piedi al centro, no, al Corso Vittorio Emanuele, insomma è tutto il centro, andavo a negozi, adesso non esco più a piedi, sto diventando un paralitico. Sbagliato, si muovo quelle altro che. Fermo le bolette e compriamo una bambola di ghisci gonfiabili, usciva a compagnia, capito? Mi ricordo quando vado a tagliarmi i capelli, te le regalo un po', glieli metti lì vicino nello sticchiopacchio. Sì, figurati, proprio la bambola gonfiabile, una cosa così squallida non ho mai vista. Oh, ce ne sono anche da 4.000 euro, che sembrano vere in tutto e per tutto, ma proprio lì bisogna essere all'ultimo stadio per comprarle. Se mi impegnassi di più magari già la troverei la piscina, però pretendono troppo le ragazze, c'è paura di case, capito? Devi avere anche un po' soldi, mi, se no... Poi quella che ho avuto io erano tutte... vecchio stampo, cioè pensavano che l'uomo deve pagare tutto, capito? Loro non mettevano neanche un centesimo, tutto io devo pagare, il cinema, le mangiate, le uscite. Dovrei trovarne una un po' più moderna, capito? Che dice oggi paghi tu, domani pago io, capito? No a carico, è troppo comodo, è. Questi ragazzi una che paga sempre, danno in meglio. Meglio, molto meglio. Vabbè, però non andrebbe bene a me anche quello, capito? Che vuol pagare sempre lei, io spiantato, capito? Che non posso offrire un gelato. Poi, ripeto, quando ho i soldi me li sputtano subito. Quindi mi sono rimasti, quanti c'ho? 35 euro mi sono rimasti. E boh. La cena naturalmente, poi sai, il tempo è quello che è, gli impegni sono quello che sono da parte vostra, io già sono sempre libero. Già la faremo quando si rimette il tempo, dai, quando si potrà, quando ti danno un turno anche più leggero, capito? Io a volte non ho problemi, è che quel periodo lì io ero molto impegnato, adesso un posto sto andando e calando, però il problema è che Gianni la vuole fare di sabato sera, capito? Perché lui sabato mattina lavora. Anch'io lavoro sabato mattina, però se sono libero di sabato è meglio farla di venerdì, capito? Perché lo sai, no? La famiglia è famiglia, ma il sabato mia moglie vuole uscire, o c'è gente a casa, qui e là, e quindi non fa. Invece durante la settimana è più fattibile. Eia, anche un venerdì va bene, ma guarda che tanto non è obbligatorio andare sabato, anche giovedì, venerdì, qualsiasi giorno, anche lunedì per dire, però sai, fine settimana magari vedi più gente, insomma vedi più gente, dai, c'è più gente, e vabbè dai, si vedrà, non c'è fretta, non c'è fretta. Sì, vabbè, capiterà che siamo in forma e andiamo. Già va bene, già va bene. Non problemi. Andavè. Luca, sto usando l'MB più 5 con quella radio grande che c'ho valvolare, bene va? Sì, sì, e vabbè, sono abituato a sentirti sempre con la solita modulazione, no, va benissimo. Dai, se capita comunque che mi lascia lì quello che vengo pure io a mangiare la pizza. Ci fa piacere. Te l'avevamo detto una volta, però è impegnato. Ci fa piacere. Sì, ogni tanto organizziamo, adesso perché mi c'è Valerio che ha delle cosettine da fare, come è libero lui lo stesso, c'è anche Valerio di Alghero, capito? Eravamo una bella graffetta l'altra volta. Ci andiamo, adesso c'è fresco mio Marco, ci sta anche meglio. Portiamo anche pomponi, così si svuota tutta la birra del locale. Ah, Antonello non mangia, si mette tutta la birra, poi è un casino, poi è venuto a Binui. Eia. Beh, va bene, dai. Qualcosa mangerà, dai. Se no cosa va a birra solo? Come la macchina va a benzina, lui va a birra. E così dite voi. Boh. quello, mi sono fermato sto casa sua, se ne beve una e basta. Sembra così, ma no. Poi vabbè, se ce l'hai a casa una lattina, quella lattina te ne bevi, ma lo capisci. Non è quello il problema, no, io mi do niente. Un bel bicchiere di vino e tira il campo. Va bene così. Sentivo dei suoni in lontananza. Vediamo se sta scendendo l'aria nella zona mia. Ah, ma cosa via la gente? Cazzo, c'è più gente adesso a settembre. Ci sono tutti e due alberghi, Torre Luglia e la Marinella pieni. Tutto settembre è pieno. La matta ne è in varia, perché costa di meno, capito? Se credo. Se sento tuoni all'orizzonte, stacco, stacco antenna, stacco presa, che poi non serve a nulla a me. Già lo sapete, se arriva il fulmine dritto sull'antenna, distrugge quanto c'è. Tutto quello che è elettrico lo distrugge, lo devasta proprio, anche se non è collegato a me. Perché l'onda elettromagnetica del fulmine lì dovrebbe rovinare tutto quello che c'è. E non me lo dici? 2 anni fa o 3 anni fa, quando ci hanno messo 4.000 euro la radio, cazzo, l'FT1000D, il millone, l'ha buttato via, un borsato, proprio al tracco barato, e non solo quello, computer, infatti Luca me l'aveva comprato, avevo comprato il computer nuovo da Luca. Tutto, 2 radio, alimentatori, computer, scala bagno, televisore del salone, tutto macribato. Questo non era diretto, era il famoso fulmine della cosa elettrica, come si dice, della... Uffa, non mi viene il termine. La casupola elettrica, come ti si chiama? La cabina elettrica. Sì, sì, te l'avevo causato io con le direttive, avevo tirato il fulmine. Cazzo, io ignorante. È un bel discorso, ha pagato bene. Ma il trasformatore l'hanno cambiato a poco, perché ne avevano messo uno provvisorio, evidentemente non ne avevano. L'hanno cambiato a poco, l'hanno messo nuovo a poco, figurati, sono passati 2 anni, ancora c'era questo trasformatore vecchio. L'hanno messo nuovo da poco, l'altro giorno. C'era il camion Elena, il camion gru, ne era sceso e l'hanno staccato tutto questa zona e l'hanno sostituito. Sì, sì, vabbè, anche se qua se succede che cade un fulmine vicino, no? Troverebbero la scusa dell'antenna, che l'antenna ha tirato, capito? E mi costringerebbero a fare come hai fatto tu, capito? A doverli sputtanare, capito? Come si dice? Quello che hai fatto tu, dai. Non è nemmeno messa a terra. Io mi ricordo un discorso che avevo fatto Vittorio. Non fate la fesseria di mettere l'antenna a terra, di fare la messa a terra, perché diventa un parafulmine, perché fai un contatto diretto dall'antenna alla terra e fa da parafulmine, cioè te li attira di più se proprio... Se cade nelle vicinanze da lì a 100 metri, magari preferisce cadere sull'antenna messa a terra. Così ha detto lui. Certo, sì, non ci bisogna dire lui, no? È una cosa normale, che fa parafulmine. No. Io in punta alla Mantova ci ho messo un tappo di sughero, praticamente lavorato al contrario, capito? Aperto dentro e in mezzo, messo il silicone, tum, è infilato, non è mai entrata acqua né niente. Un tappo di sughero rotondo, esattamente un tappo di quelli di sfumante, capito? Hai visto che c'è il coso, poi c'è il cappelletto, lo sfumante, quindi l'ho svuotato, gli ho fatto il cerchio proprio che entra dentro la punta dell'antenna, ho messo il silicone e vamo sulla playa, capito? Mi serve molto, ma molto di più, perché se cade prende la punta, è la punta che attira, la punta più alta, e quindi c'è il sughero, capito? Dovrebbe attenuare. Va bene, gli altri poi non ci sono problemi perché sono a polarizzazione orizzontale, quindi non succede. c'è niente. Però io ho lo stacantenne elettrico, capito? Quello della Meritron, quello americano. C'ho il commutatore elettronico sopra, c'è un cavo di discesa e commuto da giù elettronicamente con relè, quindi ce n'è uno libero, neutro, metto lì il relè chiude e non dovrebbe passare niente, così mi avevano detto. Però in ogni caso le antenne dell'HF ieri le ho staccate. Quella dei baracchini le ho lasciate attaccate, se me ne affutti. Manca il risallumia nei buchi. Vabbè, basta che non sia il DAC però. Finché il 48 è comunque un hold, quindi anche quello va preservato. Sì, lo so, ma ogni volta la strattaccata. Non ho il DAC, c'è il commutatore d'antenna, quindi è staccato. Non c'è un problema. Come dice un caterpillar. Ma tu immaginati quando io era caduto il fulmine. Le radio digitali, due me le ha crepate. Il 940 che è analogico, il vecchio stampo, un caterpillar della Kenwood, no? Il più grande è quello della Kenwood, faceva la Kenwood. Quello, lo sai cosa ha bruciato? Il fusibile. Le ho cambiato il fusibile all'unica radio che mi era rimasta momentaneamente e poi me l'ho ricomprata nuova. Per dirti, no? Che se una radio è fatta bene, non le succede niente. Mentre quelle digitali me le ha disintegrate. Soprattutto quelle SMD, la crembabi, la sciolte. Le più delicate, vabbè, purtroppo è così. Poi, comunque il fulmine può arrivare per via elettrica, come è successo a voi, per via della cabina elettrica, può arrivare anche per via telefonica, cioè dove cade cade, grosso modo qualche cavo lo trova, che sia un cavo dell'energia elettrica, che sia un cavo telefonico, da qualche parte passami. Ed ecco perché gli altri trovano l'alibi, l'antenna è l'alibi, capito, l'antenna amatoriale OCB, trovano la scusa che quella che ha tirato, e magari invece è passato da tutt'altra parte. Vai Luca. Tutto televisore, modem, attacca con l'archivio, tutto gli staccato. Sì, conviene, se a me lo sai viene male a staccare tutto, perché io ho sala radio, quindi i cavi sono tutti dietro, un casino, però ti ripeto, come antenna io su quello elettronico che ho, c'ho lo staccantenne elettronico, chiudere lei direttamente da sopra, non succede niente, però la corrente no Marco, io dopo che era successo quell'anno ho pagato l'elettricista, il nostro elettricista, il mio collega, è venuto sabato mattina, mi ha fatto tutto l'impianto nuovo, perché prima c'avevo una ciabatta, collegavo tutto lì, e da lì che è partito il danno, capito? Anche se la ciabatta era staccata, come dice lui, no? Che noi siamo fissati, la ciabatta è interruttore, non serve a niente, la corrente c'è sempre, perché la presa è attaccata alla corrente per alimentare la ciabatta, capito? E nella ciabatta entra. E poi chiaramente tu la spegni e non ti dà tensione agli alimentatori, però c'è, cioè, siccome il fulmine è talmente forte, non c'è l'interruttore che, non è servito a niente l'interruttore, è passata lo stesso. Quindi l'elettricista mi ha fatto il quadretto ben fatto della Ticino, comprato la Nel con corsa alla vita, capito? Quindi non ho bisogno di staccare presa e niente, sotto la base della base che ho, insomma, della sala radio. C'è il quadretto con salvavita, io non faccio altro che abbassare il salvavita e stai pur certo che non entra di niente. Ehi, oh Luca, una volta ho visto delle foto su internet di un fulmine che è sceso proprio su una villetta, direttamente centrando una villetta, no, beccando l'impianto elettrico. Ho visto che i muri dove passava il cavo elettrico all'interno era esploso, cioè si era formata una spaccatura lungo il cavo e il muro era spaccato in verticale ed era largo più di mezzo metro la fenditura. Pensa al fulmine del casino che fa, proprio i muri aperti e allargati di mezzo metro e più, e cavi ovviamente disintegrati, non c'era più cavo. Immagina il fulmine che potenza che ha, ma poi a migliaia di ampere, se non milioni, e poi voltaggi assurdi, è proprio una maledizione il fulmine. Per verità, ecco perché io li temo tanto, non è il rumore, non è mica il tuono, è proprio il fulmine, anche quando vado con l'ombrello, che ne so, devo passare in Piazza Italia che ci sono fulmini, io temo perché, cosa ne so, c'è gente che è passata in spiaggia, no? Aveva magari catenina d'oro, poi non so se c'entri, e dice il fulmine, che ne so, ha visto un conduttore e ha beccato il tipo e l'ha disintegrato. Non so se sia vero, però raccomandano di non portare né catenine, né chiavi, né oggetti metallici. E come fai? Allora devi uscire nudo. E non è detto che non ti becchi. Capito? Poi ho visto la statistica, io credevo che se beccato da un fulmine fosse una su un milione come statistica, no? Invece 1 a 3.000 è molto bassa come probabilità, ecco perché lo temo tanto. Ma è probabile come, cioè stai dicendo che è praticamente più fattibile? Sì, sì, la probabilità di essere colpito è più alta, io credevo 1 su 1.000.000, invece 1 su 3.000. Cioè su 3.000, che ne so, persone colpite, o su 3.000 fulmini che cadono, è probabile che uno ti becchi, se sei, che ne so, a piedi, capito? Anche mia zia li teme, poi lei, sai, in un'aperta campagna, lì ci sono anche i tralicci dell'alta tensione dove lei, passano proprio su di lei, o come dire, a fianco a lei, ecco perché il tema, anzi, le volevo telefonare per sapere com'era ieri notte da lei, com'era tutto l'andazzo, si è piovuto molto da lei, capito? E dopo la chiamo verso le 8, dai, 8:30. Sai qual è il problema di questa zona, Marco? Già te l'ha spiegato anche Antonello. Che non abbiamo la centrale Enel qua, con la 15.000. Capito? Se tu passi adesso, perché sei distante, se tu passi adesso qua in via, in, come si chiama? Via Carbonazzi, no? Dove c'è la centrale dell'Enel. Senti, ti metti sotto e senti. Perché i cavi della 15.000 sono bagnati, e se stai attento dove ci sono gli isolatori vedi anche come tipo sembra che stiano che sfiammino, mi capito? Non so perché, non lo so, ma quando io sono arrivato qua nell'85 praticamente, 84-85, c'erano i tralicci dell'alta tensione della 15.000 che attraversavano la strada tra via Milano e via La Malfa e praticamente andavano a collegarsi alla centrale che c'è qua, capito? E c'è stato appunto un ricorso perché i danni erano una cosa allucinante, cancelli, di tutto gribava, e quindi li hanno spostati, capito? Li hanno messi più sopra, praticamente fuori dal centro abitato, quindi se tu li vedi sono in alto dove c'è la rotonda, mentre prima passavano qua in mezzo ai palazzi. Aspetta, in mezzo ai palazzi proprio è allucinante. Vabbè, che diciamo che in mezzo dove passavano proprio le linee elettriche lì non bisognava costruire. Ma vabbè, da tanto è successo. È un macello avere quelle cose vicine. Che poi, vabbè, le linee elettriche alla fine sono dappertutto. In tutta la città ci sono i cavi. Meglio non pensarci, guarda, meglio non pensarci. Cappa. Luca, tu ieri ne hai sentiti i botti forti? Qua si è sentito un botto più forte degli altri. Avevo il gatto in camera sul letto, ho sentito... è scappato correndo. Ma tu conta, la mia ragazza mette in Piazza dei Fiori, ti ho detto tutto, le due e mezza così, mi esci il dado, perché qua da me sì, li sento, però quando sono a casa io lo metto con le cuffie del computer, diciamo molte volte non sento niente, ma lì le notte ho sentito e come. Le 2:31 conferma Valerio. Ciao Valerio, sì infatti, erano le 3 meno, forse qua ha iniziato verso le 3 meno un quarto, 3 meno 20, sino alle 3 e mezza, fulmini, tuoni, acqua forte, e poi niente, e poi si è calmato tutto. ciao Valerio. Ben entrato, sì sì, li ho guardati anche dalla finestra mi, del secondo bagnetto, mamma li turchi, per carità, guarda. E poi in altre città hanno fatto vedere anche altri giornali, fulmini globulari, quelli che vanno in orizzontale, mi, da nuvola a nuvola. In certi punti ci sono state tempeste di fulmini, non so, in tot ore, qualche ora, roba di 3000 fulmini, mamma mia. Pensa il suono, quanto è, pensa se ti cade a pochi metri, il suono deve essere devastante, devastante il suono, poi il lampo che vedi, per carità. Secondo me c'erano gli avvolgibili abbassate, perché alla fine ho detto abbasso gli avvolgibili, che te lo meno fatto a casa. Sì, sì, no, qua è arrivata dopo Valerio, evidentemente è iniziato da voi, all'Alghero, qua è arrivata intorno alle 3, mi stavo dicendo. Infatti sino alle 3:30, 3:20, una cosa del genere, stava piovendo a dirotto, fulmini, tuoni, poi ho visto che ha iniziato a allontanarsi, tuoni, lontananza e non ha piovuto più. Quando mi sono alzato ad andare al lavoro c'era anche la strada asciutta, capito? Quindi non è servita a niente quell'acqua, non è servita a niente. Se avesse continuato tutta la notte, anche stamattina, senza rompere le palle, né tuoni, né fulmini, capito, bella, tranquilla, scendendo, forse avremmo invasato, ma così non abbiamo fatto assolutamente niente. Ci vorrebbe un bel nubifragio, mi, devastante, da allagare Fredanieggia, eh? Soprattutto il vialone dove c'è, come si chiama quel vialone che costeggia Muraia, a fianco a Ocean, lì no, che prima scende e poi risale la strada, lì si forma una conca, mi, lì si forma un lago, se viene un bel nubifragio. So che poi il nubifragio fa anche danno, dovrebbe piovere più piano ma costante, capito? In modo da riempire gli invasi. E soprattutto che piova su un'invasi e non su salsa di città. Stavi parlando sopra Valeria, aspetta. Valeria, quando eri caduto qua a 20 metri dalla 20 metri più o 20-30 metri dalla cabina elettrica, provavamo convinti che era una bomba a me. Una bomba proprio, perché era il rumore di una bomba, ho detto bah, una bomba, solo che automaticamente è mancata anche la luce, quindi lì abbiamo pensato, capito, un po' meno, però inizialmente si è sentito anche uno qua nel palazzo, una bomba, invece c'era la cabina completamente distrutta, tutta nerita perché è partito il trasformatore e niente, infatti l'hanno fatta nuova, hanno fatto anche il tetto nuovo, sempre impermeabilizzata, poi dentro all'interno non so che cosa cazzo abbiamo messo, sono arrivati vigili del fuoco, 113, capito, che è una cosa pericolosissima, si supponeva che scoppiasse l'incendio, invece è arrivata l'Enel, subito ha messo tutto in sicurezza, capito? E lì hanno dato la colpa a me, che io con le direttive ho attirato il fulmine. Via Valerio, la comandano di chiudere le finestre, cioè di non lasciare le finestre aperte durante temporali, di fulmini, insomma così, dai, anche se... Anche quella storia della gabbia di Faraday delle macchine, c'è stato un caso pare a Sorso a Sennori che un fulmine ha bucato il vetro anteriore di una macchina all'angolo, no, l'angolo della carrozzeria, proprio ha forato il vetro, l'ha fuso in quell'istante e si è caricato sul sedile, ha tutto annerito, ve lo ricordate? È successo anche pochissimi anni fa. No, io non me lo ricordo sta cosa. Guarda, il tipo per fortuna non era nella macchina, se no l'avrebbe folgorato. Guarda, in un paese vicino tipo Sorso, Sennori, Nurri, una cosa del genere. Guarda, lo cercherò, se riesco a trovare l'articolo sulla nuova ve lo faccio vedere. Quindi questa cosa della gabbia di Faraday non sempre è vera. Non lo so. Una volta, guarda, una volta era andato a Siligo, no? Tanti anni fa ovviamente, perché c'era un concerto in ricordo di, come si chiama la cantante, Carta, di Siligo, ricordami il nome Claudio. Maria Carta. Sì, è successo che si è rovinato il tempo e la gente ha cominciato a fuggire per la pioggia e io ero in una zona molto elevata del paese, ha cominciato questo temporale di fulmini, ma era ghiacciante, io ero dentro la macchina, non sapevo nemmeno dove andare. Guarda, una tempesta di fulmini incredibile, da cagarsi, come ha detto Valerio. Eia. Guarda, se trovo l'articolo ve lo mando tramite WhatsApp, ok? C'erano anche le foto sulla nuova. Ok, dai, già ve lo mando. E che ne so, può darsi pure che abbia beccato la carrozzeria all'angolo col vetro, il vetro magari in quell'istante si è fuso per via del calore ed è riuscito a entrare e beccare il sedile. Guarda, se lo trovo ve lo mando, ok? Però, hai ragione, ma insomma dai, sono le 8, signori, quasi quasi io vado, dai, mi guardo un pezzo di telegiornale e guarda se trovo le oggi c'ho la lingua impastata, se trovo l'articolo ve lo mando, ok? Sia Claudio, sia Valerio, anche Luca se lo vuol leggere. Luca, tu te lo ricordi questo fatto? Era uscito sulla nuova tipo 3 anni fa, 4 anni fa. No, negativo, non ricordo. Vabbè dai, già ve lo mando se lo trovo. Ok, ciao Luca, ciao Claudio, ciao Valerio, dai, chiudo qua, vado a vedermi un po' di telegiornale, ovviamente stacco tutto, perché dice che potrebbe piovere anche tra stanotte e domani mattina. Ok, buona serata a tutti, dai, ci sentiamo. Ecco, ciao, anche io vi saluto che adesso vado a mangiare qualcosa, e ci sentiamo domani con calma, ciao a tutti, buona cena. E alle prossime, ciao Cla, se prendi tu io chiudo, ciao Marco, ciao Valerio, ciao ciao. Yeah, ciao a tutti, ciao. Non ho capito, la parola italiana, che cosa c'è? Parla italiano, perché tu sei, vabbè, sei mezzo catalano, mezzo milanese, sì. Però se dico Belin, lo sai cosa vuol dire Belin? Claudio, abbiamo chiuso, cioè almeno io ho salutato tutti e ho chiuso, mi guardo un pezzo di telegiornale, ok, se trovo l'articolo ve lo mando, ciao, ciao, ciao, buona serata. Ok Marco, sì, che stavi chiudendo, tu già ho sentito, hai capito Vale, in piemontese già lo sai cosa vuol dire, no? È la sorella di mia madre, ogni volta che viene c'è proprio questo Belin, pulito questo Belin, noi siamo troppo volgari, capite? Almeno loro sono più ordinati, Belin. Infatti ho visto, sono le 8:10 quasi, anch'io chiudo. Andiamo a vederci un po' di TV, poi iniziamo la settimana santa di nuovo, vai. Ciao Vale, piacere averti ascoltato, ciao Marco, ciao Luca e chiunque fosse in ascolto qua sul canale 10, dai. Alle prossimine, a domani a tutti, buon fine domenica, buon inizio settimana per tutti. Ciao ciao. Ciao Valerio. Ciao Claudio.